C'è qualcuno in linea? Lo sentiamo, pronto? Michele Caruso, troglodita muori. Grazie Michele Caruso, che è riuscito a imbrogliare, come ha fatto con Portobello, anche il nostro regista. Michele Caruso, troglodita muori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quando il 21 dicembre del 2017 15 eroi, perché un giorno saranno indicati per nome e per cognome, si sono recati al Quirinale perché dovevano provare se Mattarella era veramente stato regolarmente eletto Presidente della Repubblica. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Ma la magistratura che sta zitta, le forze dell'ordine che stanno zitte, la stampa che sta zitto, 15 eroi si sono presentati lì con un verbale di arresto. E il verbale di arresto ancora lì, non contestato da alcuno, per cui Sergio Mattarella non è il capo dello Stato. Noi non siamo ricattabili, gli facciamo mangiare i gomiti. Immediatamente, la prima telefonata è diretta subito alla Merkel. Lei cosa vuole, signora? Da questo momento lei finisce di fare la padrona in Italia contro il sistema economico-finanziario tedesco. Dovete riunirvi a un solo grido, a un solo grido. Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi sta girando la testa, vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male per caso? Devo fare un attimo di esercitazione. Questo a voi due farebbe comodo che il ministro della salute fosse Vanna Marchi. D'accordo? Oggi abbiamo 35.000 nuovi casi su 217.000 tamponi e solo 580 morti, d'accordo? Io sono 20 anni che dico che il sale naturalmente cura. Naturalmente, vedi come si inoltre, poi si confondono le cose. Io ho detto che sono 20 anni che ho il sale, d'accordo? Before the truth will say. Oggi chiamo bonus PC, salve, niente, chiamavo per il bonus PC, no, a lei non gli tocca, perché? Perché già ha la fibra, ok, fatemi lo sconto, no, vabbè, e il tablet? No, non le tocca neanche il tablet, e mo cash facci meghi da morti, come tocca? Bonus babysitter a chi c'ha il doppio reddito. Bonus monopattini, vado a lavorare col cazzo 30 km andata e ritorno col monopattino e mo neanche il bonus cazzo del PC, ma vaffanculo. È un'Italia confusa, distrutta, è un'Italia ormai allo stremo. E David Parenzo se ne fotte. David Parenzo sempre col suo solito maglioncino di cashmere, seduto tranquillamente nello studio di Roma. Tanto stasera lo accoglie che cosa? La sua famiglia ricca, certo, borghese, cena servita da una signora ben pagata, naturalmente. Eccolo lì, da Roma, applausi, da Roma, applausi. Buonasera cari amici. Incredibile, incredibile. Aspetta, in collegamento, ha adagiato per mezz'ora. Adagiato mollemente sul suo cazzo di letto ad Abano Terme, sì? Signor Alberto Gottardo. Anche a me servono la sera, la cena stasera in camera, mollemente adagiato, però in sarà una cena sempre molto parca, perché altrimenti altrimenti ingrassi di nuovo. Una buona notizia oggi, ragazzi, finalmente una buona notizia: il tizio del ciondolo di ispirazione, diciamo, di produzione israeliana, che avrebbe fermato il virus, quello solo perché c'è Israele di mezzo ci crede a quel ciondolo della minchia. Arriva il Mossad, il sindacalista si è dimesso da un incarico regionale in Puglia che aveva. Ora io dico, in un'Italia in cui non si dimette nessuno, questo gesto va salutato con un applauso. Applaudiamo sicuramente questo signore prendeva. No, lo voglio dire. Questo tizio qua chiaramente è un personaggio che abbiamo ieri, capito, preso per il culo ampiamente per il ciondolo anti-Covid. Detto questo, in un'Italia in cui non si dimette nessuno, almeno questo signore, che si chiama Tiani, è un sindacalista di polizia, 40.000 di stipendio l'anno da una società pugliese, va bene, d'accordo, quello che vuoi, però... Scusa, ma si è dimesso l'altro, il commissario anti-Covid in Calabria, che ne ha dette di tutti i colori? Si è dimesso oppure è ancora in carica? È ancora in carica? No, è ancora in carica. Questo qua invece si è dimesso da quell'incarico. Sentiamolo un attimo, dice: sono stato dileggiato, eccetera, eccetera. Sono stato dileggiato, ritengo ingiustamente, perché io non ho mai. Io ho 33 anni di onoratissimo servizio lo Stato, per la Polizia di Stato, governo un sindacato molto grande. Io, nell'ambito di un'audizione parlamentare sul tema era immigrazione e sicurezza, rivendicare diritti per i poliziotti in merito alla tutela legale e operativa, ho semplicemente chiesto, e probabilmente ho commesso un errore di comunicazione, di utilizzare la tecnologia più all'avanguardia che purifica l'aria per la solubilità degli ambienti. Ma quale tecnologia che purifica l'aria? Ma questo ciondolo non esiste. Ma esiste, ma è una roba tipo quelle. Ma dai, lo sai quei ciondoli? Ma che... tu stai scherzando? Io voglio fare un'inchiesta adesso per capire sui di questa ciondoli. Straordinaria cioè, tecnologia. Ma che esiste israeliana. Un ciondolo che purifica l'aria, secondo ho te? Ho già chiesto l'autorizzazione. Cioè, esiste, a secondo te, un ciondolo che purifica l'aria? Tu sei convinto che esista un ciondolo che purifica l'aria? Io dico che quello che inventa il Mossad, 9 su 10. Ma questa non è roba del Mossad, non è vero. Dopodiché la notizia il ciondolo che di purifica oggi l'aria, un'altra. Ragazzi, beh, guarda, dai, aspetta. Questo rivendica. Ti ricordi Cicchitto? Guarda, non fare troppo lo stronzo, guarda. Non fare troppo lo stronzo, guarda. Aspetta. Diciamo, io sono un uomo di una trasparenza assoluta. Io ho semplicemente commesso un errore di comunicazione. Io ho rivendicato un purificatore d'aria che la tecnologia più all'avanguardia ha reso fruibile a livello individuale. Per il lavoro dei poliziotti stavo facendo una rivendicazione, avevo chiesto al Parlamento nell'ambito dell'audizione. Ragazzi, io invito i poliziotti a chiamare. Non esiste il ciondolo purificatore per i poliziotti. Non può fare la polizia. I poliziotti, se c'hanno sto ciondolo, hanno pure una rottura di coglioni quando devono operare. Ma cos'è il ciondolo purificatore per i poliziotti? È roba vostra. Ma tu lo rivendichi solo perché è di natura israeliana. Ma non ho voglia di saperne di più. Voglio solo saperne di più. Voglio sapere di più. Voglio capire se è vero. È una puttanata. La notizia del giorno è un'altra. Remuzzi, il grande Remuzzi. Sapete chi è Remuzzi o no? Sì, è un medico. Lo sapete o no? Non è un medico, istituto superiore di sanità, una grande eccellenza italiana, dice con il vaccino non ci ammaleremo, ma il virus resterà. Allora la grande riflessione che noi dovremmo aprire, ma non c'è nessuna riflessione, la grande perché ti mando riflessione a fare il culo. Che noi dovremmo aprire un'altra, perché oggi sono mille notizie, 4-5 vaccini che forse arriveranno, non si sa quando saranno disponibili, di che parliamo? No, c'è il vaccino della Pfizer che sta arrivando, ovviamente 27 milioni di dosi. Non ha niente da dire Parenzo. Allora, una cosa che vi voglio far ascoltare invece molto interessante è il modo in cui l'ha presa il senatore Pillon, super cattolico Pillon, eletto nelle fila della Lega. Secondo lui, hanno approvato, approfittando della pandemia, un sacco di leggi contro la famiglia. Cioè, approfittando della pandemia, il Parlamento ha approfittato. Ma tuo amico Pillon? Il Parlamento al suo congresso? No. C'è stato al suo congresso? Tuo amico Pillon? Era il congresso dove c'erano un sacco di associazioni. Tuo amico? L'ho visto una sola volta in vita mia. Belle amicizie, veramente imbarazzante. Sei imbarazzante. Forse si sta perseguendo un altro piano strategico. Qual è il piano generale? Strategico? Continuate a dire di non avere tempo, eppure avete trovato il tempo in questi ultimi 3 mesi di liberalizzare, per esempio, la pillola paraabortiva per le minorenni senza ricetta né firma dei genitori. Avete trovato il tempo, è notizia di questi giorni, di liberalizzare le droghe leggere, ancora con la storia della cannabis pseudo light. Ma ancora una volta con questa leggenda che la droga leggera si può vendere nei cannabis shop. Avete bloccato per mesi, per mesi, da luglio a oggi avete bloccato i lavori della Camera dei Deputati per il DDL Zan, che metterà una benda sulle nostre bocche, una legge liberticida che non serve a nulla se non a fare danni, se non a portare il gender nelle scuole. Poi? Perché? Perché avete un obiettivo molto chiaro: usare la crisi del coronavirus per abolire la famiglia, abolire le tradizioni, per abolire i valori, per abolire la nostra identità, perché il nostro paese sia consegnato, alle grandi lobby, alle grandi speculazioni della finanza internazionale, che hanno tutti gli strumenti e tutto l'interno. Ragazzi, questi qua veramente lo pensano. Pillon pensa che il Covid venga utilizzato per affossare la famiglia. Scusami, ti chiedo una cosa, tu che dai voce a tutti questi, questi personaggi. Ma le grandi organizzazioni internazionali hanno tempo per fare tutte queste cose? Perché ogni cosa è attribuita alle grandi. Adesso la famiglia, Rothschild, la vuole discutere. Lobby, ho capito! Ma quanto la giornata? La giornata è sempre fatta di 24 ore, ammesso e non concesso che il grande Rothschild voglia A, distruggere la famiglia, e va bene, poi B, il vaccino, lo vuole, via, poi Covid, via. Ma quanto cazzo di tempo ha il Rothschild per fare tutte queste cose contemporaneamente? Gottardo, vaffanculo, facci fumare. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Piccolo aggiornamento da Bologna per Radio Puttane. Confermo, è tornata la puttana mora su via Stalingrado. Piccolo aggiornamento: la puttana bionda invece si è spostata su viale Europa. Attenzione, mora su via Stalingrado, bionda su viale Europa. Prossimi aggiornamenti per Radio Puttane, al più presto, saluti. Il mio olio di oliva extravergine tenuta rasciatano, facciamo un po' di pubblicità. Come? Ma è il suo? Ma è il suo il vino lasciatano? L'olio lasciatano? È la sua la tenuta, scusa. Una marchetta pazzesca, è il suo olio, l'ho preso anche qualche volta, l'ho comprato ovviamente il suo olio. Ma ha fatto la marchetta al suo olio, non ci credo. E l'altro ride. Ha fatto la marchetta anche a me, in realtà. Cioè? Beh, libero, anche tu. Grande marchetta libero, sì. Ah, vabbè, quello però, libero. Sai. Sì, vabbè, normale. Allora, ragazzi, Sgarbi è molto incazzato per il caso di quella signora. Sapete, c'è una signora con la pizza. A prendere la pizza, i carabinieri irrompono dentro casa sua perché avrebbe violato non so quale DPC. Ragazzi, è pieno di questi casi limite. Ci sono centinaia, migliaia di casi al giorno di gente multata per 400 euro per non avere fatto un cazzo, per non avere la cartuccella della Gestapo in mano, chiaro? La cartuccella. Io quel cazzo di auto dell'autodichiarazione la strapperei. L'autodichiarazione è una roba da Gestapo. Va cancellata l'autodichiarazione. L'autodichiarazione è vergognosa. Il caudillo del popolo, smettila di fare il caudillo del popolo. Ma ti pare normale che i carabinieri, magari seguendo la legge, sono entrati dentro casa di una? Ma avremo eccessi che tutti i cose. Uno è stato multato di 400 euro perché stava in mezzo alla strada ad aspettare la moglie che usciva dal supermercato. Un altro multato di 400 euro perché. Tutte scuse, dice che deve stare a casa. Fine. Ma non rompere i coglioni, dai, su. Ma ti devi vergognare, dai. Gente che deve stare a casa, lo capisci? Ma ti devi vergognare, vergognare. Ti dovresti solo vergognare e basta di quello che dici, dai, Sgarbi. Stato di polizia. Per chi avesse dubbi, quello che vedrete è assolutamente inequivocabile. Vorrei che a casa di sommi, a casa di scarsi, a casa di quanti di Selvaggia, non mi ricordo come si chiami, andassero i carabinieri bussando alla porta con la minaccia di sfondarla perché sono scesi per strada a ritirare una pizza a domicilio. No, non è tollerabile. E se vi piace, allora vuol dire che avete nostalgia del nazismo. Brava, bravissima, straordinaria la donna che ha resistito in nome di principi semplici di riservatezza, di libertà, alla polizia, ai carabinieri, carabinieri che volevano sfondare la porta per vederle i documenti, per averla trovata per strada mentre gli tirava una pizza. No, no, questo è stato di polizia. Se qualcuno vuole negarlo, lo sfido qui e mi auguro che vadano a casa sua a cercare di entrare sfondando la porta. Non è tollerabile. Viva la libertà! Comunque mi inquieta un po' ogni tanto che viva la libertà lo dica anche il signor Pappalardo. Esatto, il signor Pappalardo esatto. Chiude, usa le tue stesse chiude, parole. Chiude i comizi, sì, le sue intemerate con viva la libertà, viva domandati, la libertà, fatti delle domande, viva la libertà. Fatti delle domande. Io lo dirò sempre, anche ragazzi. Anche i negazionisti viva del Covid la libertà, lo dicono. Viva la libertà. Quelli che andavano in piazza senza mascherina dicevano viva la libertà, esattamente come te. Vergognati. Irresponsabile. E chiederò, io voglio fare un'azione collettiva contro di te, una class action. Culo, ho già vai. Contattato il Codacons il per Codacons. Fare contro di te una class action. Ma per quello cosa? Che non dici, ho class cosa? Action. Perché class cosa? Non ho per capito. Quello che hai detto tutte queste settimane, abbiamo raccolto tutto, tutto quello che hai detto, libertà, libertà, libertà. E allora class non action. Ho capito, libertà, libertà, deve valere sempre. Su ma quello scusa, che ma tu nei hai confronti detto. Di uno come Galli, per esempio, no? Il grande professor Galli. Che dice? Da chi ti faresti curare tu? Da Galli o da qualche medico negazionista come questi? Non come, lo so, come dipende Bacco. Da chi. Dipende come da chi. Bacco. Forse Bacco, da sai. Da chi ti faresti curare? Ma vergognati. Forse Bacco. Io non forse ti Bacco. Auguro di avere il Covid, forse. Ma allora vai fino in fondo. Quello è un medico legale. Quello è un medico. Quello è il medico dei morti, che infatti sono morti. È il medico dei morti quello lì. Allora ti faccio sentire però una cosa. Galli che dice che a Natale non ci saranno i cenoni con, allargati con la famiglia. Ma che cazzo ne sai, dai ragazzi. Beh, certo, vedere ma che curve. Cazzo ne sai. Ma cosa cazzo ne sai che non ci saranno i cenoni allargati con la famiglia. Ma come fai a dirlo oggi che è l'11 perché di novembre è il 24. Ma è chiaro. Beh, adesso, che cosa. Ma siete dei menagramo. Ma lo volete capire che siete dei menagramo. O si comincia a parlare chiaro dicendo delle cose chiaramente, o si continua a fare il caudillo, il demagogo come te che raccontano Galli, balle Galli. Alle persone. Che anche nella migliore delle ipotesi si fa un sacrificio pesante o meno pesante, comunque un sacrificio ora, e si arriva magari ad avere una situazione già tendente al bello a Natale, ma anche se così fosse non possiamo trasformare il prossimo Natale nel Ferragosto scorso. Certo, non è che possiamo farci il Natale con 50 persone appunto. A tavola, ma forse ecco, un Natale con la famiglia grandi stretta grandi cenoni a famiglia allargata. Immaginare, diciamo, con una famiglia che insomma di 10-12 persone. Stretta. Decisamente stretta. Poi ci dirà lui il numero di persone ovvio. Massimo consentito. Ma eh? No, ma è il buon senso. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. La cosa cose. Più bella però è questa, ragazzi. Quella di ieri sera, Martina, che è una nuova posizione incredibile. Senti. Il mio famoso anal rimming, per chi non lo conoscesse, ho detto anche CPC, culo palle cazzo. CPC, CPC, CPC. Senti. Cos'è? CPC, CPC, parte sopra, scende, scende, giù, vai. Ma come mai, anzi, ma sta male? CPC, CPC. Nuovo rimming, si chiama CPC. Senti come ansia, senti. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Lodovica, provincia di Lodovica, provincia di Agrigente. Tu pensavi che CPC fosse il codice di procedura civile? Esatto, invece no. Esatto, invece no, invece bravo, invece no. Esattamente. Lodovica, esatto. Vai Lodovica, dimmi. Bravo. Oh, Lodovica. Pronto? Dimmi, dimmi Lodovica, dimmi. Allora, salve, ho scoperto da poco questa trasmissione. Ho visto sì, che male. Parlate un po' di tutto. Sì, male, di tutto, male, assolutamente male, di tutto. Male. Di CPC, di canale, come chiudi di virus. Su, chiuda subito, male. Vada su altre frequenze, legga un libro. Chiuda, trasmissione sì, da non ascoltare. Zitta, zitta. Quanti anni hai? Quanti anni hai, Lodovica? Quanti anni hai? 21. 21, ottimo, ottimo. Dimmi tutto, dimmi di allora, cosa volevi parlare. Esatto, io sono siciliana, non sì. So se l'avete. Sì. Lo sapete. Vabbè. Volevo parlare di un tema abbastanza importante al giorno d'oggi che è la verginità. Sei vergine, Lodovica? Sei vergine? Sì. Sei vergine, a 21 anni sei vergine. sì, però in compenso posso dirti, che mi masturbo dalla mattina alla sera. Ma perché io voglio capire, ragazzi, per carità, va tutto bene, però arrivare a 21 anni vergine, beh, non è un'età incredibile. No, non è un'età incredibile, però mi stupisce oggi nel 2020. Mi stupisce moltissimo che una ragazza ma se il mondo è pieno di coglioni, io cosa posso farci? Meglio il cazzo che i coglioni, no? Io ho anche degli escort che fanno delle tra i servizi che hanno c'è anche quello di verginità, capito, ma però non mi per piace carità darmi a uno a casa in discoteca. Ma quali sono le misure di Lodovica, però, perché uno può che rimanere le misure, 21 anni perché è un boiler e quindi capisci, cioè 90 non cominciare a dire le solite cazzate. Lodovica magari non c'entra niente la bellezza, quanto è alta, quanto non è alta. Cosa? Lodovica, voglio capire una cosa, scusami, tu sei vergine a 21 anni. Esatto. Ecco, ma perché lo vuoi comunicare? Perché hai una difficoltà nel trovare un partner? Perché cosa? No, volevo solamente parlarne per capire, perché alcuni lo fanno in maniera così superficiale, soprattutto le prime volte, cioè secondo me non va fatto così. Infatti, no, secondo me va data, posso dirti una cosa, Lodovica? Va data. Aspetta, fammi finire. No, va data molto, poi ti richiamo. Va data via molto facilmente, senza, come se nulla fosse, non è un problema. Non avere questa fissazione della prima volta, te lo dico in maniera molto, guarda, lo direi anche a mia figlia, che te ne frega, ma la prima volta, carità, ma che te ne importa che sia la prima? A questo si insegna. Un cretino, cioè, ma che te ne frega un cretino, un intelligente, ma che c'entra stringere la mano, gli devi dare qualcos'altro, non la mano. Aspetta, brava, Lodovica, torno da te dopo, questa è la bella gioventù. La Zanzara. Fai tu, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Firenze, Pisa, Livorno, strada di grande comunicazione, un pezzo di merda di camionista che a 85 km all'ora si è installato in corsia di sorpasso. Ma si può circolare con lanciafiamme, cazzo! Sono indecisa se seguire la lezione di Zagrebeschi o la Zanzara. Lorenzo, cosa dici? Gli arrivi, l'immigrazione, noi tutti in chiesa, sapete quanti gli arrivi a novembre? Più 1000%, fra gli arrivi anche qualcuno che noi abbiamo intervistato, faccio saltare il ponte di Rialto, parla terrorista islamico, un terrorista islamico che voleva farsi saltare carte, documenti alla mano sul ponte di Rialto, un'altra esclusiva. Pronto? Ragazzi, io non so perché mi sono appassionato di questa CPC. Non so perché, sono diventato pazzo di questa CPC. Effettivamente non è una cosa nuova. Codice di procedura civile. Sì, non è il codice di procedura civile. Non è una cosa nuova, non è una tecnica sessuale nuova, se ci pensate bene, no? Però fatta come la fa questa Sabrina, questa escort, devo dire che è eccezionale. Con tutte le pensateci cose che ci sono nel mondo, la distribuzione dei vaccini ci è affidata ad Arcuri in Italia. Auguri, sì, certo, auguri, l'ottimo Arcuri, auguri, l'ottimo tanti Arcuri, tantissimi auguri, l'ottimo Arcuri per voi, cioè, che prenderete il vaccino. Devi dire non auguri, tanti, Arcuri, tantissimi auguri, Arcuri devi dire, no, Arcuri, Arcuri, cazzo, Arcuri devi dire, cazzo, Arcuri. Intanto l'ottimo Arcuri, io dico invece, dopo le belle figure che ha fatto in tanti altri ambiti, l'ottimo Arcuri. Pure la distribuzione dei vaccini, incredibile, ragazzi, non ci salveremo. Però mi interessa molto di più, al di là di Arcuri, il CPC. Ragazzi, guardate che CPC è eccezionale, se ci pensate bene. Ma sentite, un avvocato. Ma senti il CPC, senti. Io conosco la CDP. Per chi non lo conoscesse, ho detto anche CPC, culo palle cazzo. Capito? mettetevi così la prossima volta con la vostra fidanzata. La prossima volta con la vostra fidanzata, Parenzo, ti do un consiglio: mettiti a carponi. Sotto le gambe, metti un cuscino. Tieni fuori dal cuscino, fai prendere il tuo piccolo uccello. E fai partire la tua compagna in alto dal sedere. E giù, CPC. Ho detto anche CPC, culo palle cazzo. Vabbè, io voglio parlare di CDP, che è Cassa Depositi e Prestiti. Invece mi interessa, ragazzi, di più la Cassa CPC Depositi è fondamentale. E Prestiti. Allora, parlavamo con Lodovica dalla provincia di Agrigento. Ma ragazzi, che porcheria, la vita quotidiana degli italiani, non c'è solo il Covid e questa rottura di coglioni. La vita quotidiana degli italiani è il progetto del governo per il nuovo lockdown leggero. Diglielo tu, Gottardo, non c'è il lockdown leggero nella testa degli italiani, c'è anche questo. Ma la gente la sera pensa al CPC, diglielo tu, Gottardo, sennò io che posso. Ci sono quelli che hanno lockdown delle mutande, ad esempio la nostra ospite di Agrigento, che ha 21 anni e credo 90 kg, è ancora vergine, perché se è sotto i 90 kg. Perché se è sotto i 90 kg allora c'è un problema psicologico. Lodovica, se una vergine a 21 anni, dai. Lodovica, rispondi tu. O devi andare dal dietista o devi andare dallo psicologo. Allora, dai. Innanzitutto volevo dire che non sono una persona in sovrappeso. Non sei un boy. E anche penso che anche le donne in sovrappeso hanno una vita sessuale. Ma sì, tipo, ma infatti questo mi sembra anche un'offesa nelle persone. Assolutamente, guardate, si autoffende. Sono una bellissima ragazza formosa e quindi non me la sento, quindi questo volevo dire, siccome non so chi siete, ma come bene, sei non arrivata, le come sei arrivata vergine a 21 anni? Torniamo, non pensare a Gottardo, iniziamo. Ho 21 anni, lo sono, perché non ho trovato una persona che mi ha dato il motivo per farlo. Ma, certo, ma dalla via facile, non senza problemi. Altre, però io sto bene, per me non è un tabù, perché lo faccio dalla mattina alla sera, da sola. Io sto bene con me stessa, lo faccio. Non mi viene voglia, sono umana, non sono asessuata, questo è poco ma sicuro. Sì, volevo capire, Lodovica, la tua famiglia, ne hai parlato con tua madre? No, non ne parli di queste cose con tua madre? Diciamo che in Sicilia c'è una mentalità abbastanza arretrata, quindi va bene così. Qualcuno mi suggerisce, magari sei vergine nella vagina, ma non sei vergine analmente, qualche brutta... No, per me hanno lo stesso valore, anzi forse a dare doppio valore. Cioè tu all'anno dai più, anche questa cosa io non la capisco, perché uno deve dare più valore al sesso anale piuttosto... Mio piede. Se tu mi dici sono feticista, fammi leccare il piede, non te lo faccio leccare se sei un coglione, devi essere uno con i coglioni. Allora tienitela, non so chi tu sia, però Gottardo. Io me la tengo stretta, tranquilla. Sì, ma non devi tenere stretta. Avete ragione, dà valore alle cose. Ma cosa dà valore a un pezzo di carne? Ragazzi, bravissimo, dà valore alle cose. È molto bello questo messaggio e grazie per aver chiamato. È una bella figura questa, è una bella Italia, è una bella espagnata della gioventù. Ma è una figura di una persona intelligente, quante ragazze vanno in giro per coglioni? Cui chi la dà è stupido, chi la dà in giro è stupido. Ma è così, chi tromba come un assassino è stupido. Beh, al primo che capita sì. Sera, non c'entra niente questo discorso. E allora dalla in giro, che ti godi di più, godi di più a scopare. Devo dire che ha ragione Gottardo su questo. Come fai a sapere che godi di meno? No, però è interessante questo argomento. Scusami, Lodovica, è molto interessante. Come si dice in Sicilia, con la sta vecchia panuova male si trovava, quindi preferisco rimanere come stavano. Sì, però scusami, Lodovica, io rispetto la tua... Rimani vergine tutta la vita, non chiamare a rompere i coglioni. Non ci fare caso, Lodovica, lascia perdere. Dunque, manchi di rispetto alle donne sovrappeso, manchi di rispetto alla ragazza. Non è questione di ragazza. Deve avere stai zitto un attimo. Che caratteristiche deve avere un uomo per concupirti? Io apprezzo la scelta di Lodovica perché apprezzo tutte le scelte di libertà. Dico semplicemente una cosa, però, che dare così valore alla verginità come dai tu è un errore madornale. Uno può dare valore a quello che vuole, ma che valore è la verginità? Perché dai valore sostanzialmente a un imene? Non do valore a un imene, io mi infilo anche 10 spazzole dentro la figa, non è quello il problema. Non sei più vergine, ragazza. Scusa, se sei passato un reggimento di spazzole, chiaramente non sei più vergine. Ma io sto sulla verginità all'atto. Sì, ho capito, però allora, diciamo la verità. Allora, diciamo la verità. Se tu ti masturbi con dei vibratori, con degli oggetti, eccetera, eccetera, non lo so se allora... lo fai, probabilmente sì, giusto? Lodovica, lo fai? No. Non lo fai, no. Va bene. Però mettersi un dito dentro, metterci un pisello dentro, non fa nessuna differenza, c'è un uomo di mezzo. No, ho parlato anche con delle persone abbastanza... Ma cosa dite? Con dei professionisti. Non c'entra niente questo. Professionisti di che cosa? Con un ginecologo. Con un ginecologo, che dico un ginecologo? Con un sessuologo, con qualcuno avrò parlato. Sicuramente un dito non è un cazzo, almeno che. Ma no, ma certo, non c'è dubbio. Voglio dire. Però due dita magari sì, tre dita magari sì. Cioè, voglio dirti una cosa, io, c'è una cosa che voglio dirti molto chiaramente. Io voglio rompere questo tabù, perché rispettando le tue scelte, questo tabù della verginità è un altro dei grandi piccoli tabù. Perché ma non è un tabù, io non dico che devo rimanere vergine perché la devo dare a mia madre. Sì, ma a 21 anni, a 21 adatta, anni, ragione. A 21 anni. Ma è una scelta. Ma possibile che non hai incontrato uno a 21 anni che un minimo ti piaccia per essere penetrata? No, dai. Ma io vado a cena fuori e se mi guardano con la bavetta in bocca, a me mi si asciuga la figa, quindi non te la do. Cioè, ovvio. Vabbè, è ragazzi, come se tu esci con una che non ti puoi dire cazzo, te la scopi. È impossibile. Evidentemente, è matematica, io sono un po', insomma, voglio dire, non è che basta poco. Ma scusami, basta amica, un però i film porno li guardi? Sì, sono bellissimi. Sei neanche più vergine mentalmente, cioè fatti scopare che tanto la prima, la seconda e la terza volta. Ma cosa ve ne frega a voi? Ma io non devo farlo con una persona che non mi suscita niente. Brava, bravissima. Perché ragione. Ti togli il pensiero, ti sblocchi. No, scusami, perché ti sblocchi? Io sono molto perché non la rispettate? Perché non la rispettate? Ha una sensibilità. Ma perché devi stare bloccarsi? Scusami, io vorrei rispondere a questa voce un po' strana, un po' Gottardo, sì, Gottardo. che vorrebbe in realtà deflorarti. Cioè, no, non è per idea. Guarda, Dio mi scampi dalle vergini. Dalle vergini e viva le navi scuola. Le peggiori scopate te le fai con quelle che hanno scopato poco, le migliori con quelle che hanno preso più uno scoglio di mare. Guarda, c'è poco da fare. Sì, questo è vero, ragazzi. Questo è vero, oggettivamente è vero. Le vergini le lascio quelli che sono, complessati. Anch'io. Io voglio quelle porche, io voglio quelle usurate. Ma chi te l'ha detto? Sono che le scopate persona... migliori. Scusami, signore, ma chi te l'ha detto che una ragazza vergine non possa essere porca? No, è molto difficile. Non è possibile. Tecnicamente possibile. Molto difficile, non è tecnicamente possibile. Scusami, Lodovica, aspetta un attimo. Lodovica, Scusami, un attimo. È incredibile. Guarda, quando ci parli di queste cose, no, parlo io. Lodovica, scusa un attimo. Hai mai fatto un pompino in vita tua o no? Bravo. Non ho capito. Hai mai fatto un pompino in vita tua o no? Un pompino, certo. Assolutamente. Scusate se mi assento un attimo intanto. Allora, scusa, ma che vergine sei? Che vergine sei? Quanti pompini hai fatto? A quanti uomini? Cosa? A quanti uomini hai fatto i pompini? Uno. A uno solo. Uno solo. Uno solo a 21 anni. Tu mi hai bastato per stare male e vomitare per un mese. Perché vomitare? Ma dai. Preferisco farlo con un cono gelato. Ma perché vomitare? Si vede che non ti piace il cazzo. Si vede che non ti piace il cazzo, amica mia. Fabrizio da Milano. Fabrizio, dimmi. Chiuse. Ecco, quel Fabrizio. Mancava Ludovica. Questa, certo, che sei vergine così, appena prova il cazzo è la fine. Mamma mia, ascoltami, Giuse. In che senso la fine? Scusami, Fabri. Non mi sembrava una troppo vergine, era bella in forma, bella tia. Questa è la volta che prova il cazzo è la fine. Cioè, tu dici, è scatenata. Fermo un attimo. Arrivo da te, fermo. Lo sai che ci abbiamo la pubblicità. Lodovica, addio, Lodovica. Mi raccomando, dalla via facile. No! Facile, ciao. La zanzara. Dici vinci la compagna vostra. Ma chi è? Questa è una bella canzone napoletana. Oggi è Pappalardo. Oh mamma mia. Ecco, quello deve fare. Ma che ha voglia bene, che è tutta vita mia. Ecco, ma questo è già più autorevole quando fa questo. Dici vinci la poi mi dici capite che spaccare e lanciare i sassi non serve a un cazzo? Ma come non serve a un cazzo? Ma alla fine della fiera questi qua fanno come cazzo vogliono, hanno ottenuto quello che volevano. E questo è il messaggio che passa. Qui noi, su al nord Italia, siamo qua con le attività chiuse, c'è gente che si prende la corda, se la lega al collo e si impicca, e giù a Napoli vanno al lungomare il sabato e la domenica perché c'è bel sole. Ma dove cazzo siamo? Ma che cazzo di governo ci rappresenta? Ma gente senza coglioni, senza palle, gente che ha paura. Proprio guarda, che andassero tutti a cagare col monopatti. Poi si sentì Conte, Conte ha parlato con la regione e la regione ha deciso che è meglio non chiudere. E quello là chiede aiuto al prefetto per intensificare i controlli. Al contrario, se va qualcosa in merda, la regione dice che è lo Stato che ha deciso. Ma che cazzo di modo di gestire la roba è? Ma io a questi qua non gli darei a gestire neanche una caffetteria, ma neanche una tabaccheria, porca puttana. Comunque ragazzi, sta diventando virale un video girato al Cardarelli con un morto trovato in bagno. E un video girato perché i soccorritori si sono allontanati per un attimo, questo tizio forse di Covid è morto in bagno. La cosa pazzesca è che nessuno vuole chiudere Napoli, nessuno vuole prendersi la responsabilità, esatto, di chiudere Napoli, bravo, sempre bravo. Se sia necessario chiudere, naturalmente, esatto, non lo so, sempre esatto. Se probabilmente è necessario chiudere. Scarica barile imbarazzante, finalmente, cioè, l'hai capito, finalmente l'hai Luca capito. Non si vuole prendere responsabilità. De Magistris si dice che la situazione è terribile, forse bisognerebbe chiudere Napoli o forse tutta la Campania. Porro. E lui fa sentire porro. Porro. Ci sono tutte pagine e pagine sull'Emilia Romagna, sul Veneto, ma non c'è una pagina che sia una che ci racconti il caso campano. Cioè voi mi dovete spiegare per quale diavolo di motivo sta succedendo un casino pazzesco in Campania e quella regione, a quanto ci risulta, sia ancora gialla. Quindi ha gridato al lupo, poi il lupo è veramente arrivato e vuole che a catturare il lupo sia il governo, così che lui possa dire magari un domani: e beh, ma è il governo che ha fatto il lockdown, non io. Io la trovo una storia incredibile di come si è governati in quella regione, di quel cialtrone di De Luca, che a me sta anche simpatico, mi stava molto simpatico, però devo dire che aver gestito male questa cosa è dire poco. Allora, eravamo con Fabrizio da Milano, grandissimo, grande ritorno. Fabri, che cosa hai da dire? Fabri, dimmi. Zuppa di porro numero uno al mattino per me, se non c'è la zuppa di porro e il caffè la zuppa di guai. Ma ne capirai il 10%. Ma fa niente, l'importante è sentire porro, ecco, e perché ne capisci il 10%. Ma che ne sai? Dalla centralinista simpaticissima, è come simpatica quanto Alan Friedman la vostra centralinista. Perché che ha fatto? Ma come ti permette la lavoratrice? Ma no, io mi permette come? È passata voi di telefonare, una simpaticona, sembra Lily Gruber, sembra. Ma è una lavoratrice, che c'entra? Abbi rispetto. Mi fa piacere che lavora, ma comunque se li sta sul cazzo, li sta sul cazzo. Ma che c'entra? Quella lavora e questo non fa un cazzo, ma come si permette? Neanche, non mi fa neanche, cioè, ho capito, non, ma la centralista lavora, sì, tu sei un povero cretino. Tu sei un coglione. Allora Giuseppe, partiamo da, dopo ti dico quello che ti volevo dire sui complottisti, sì. Però prima ti devo fare una premessa, perché comunque sia, a me di lui non mi interessa niente di Parenzo, però per te è un amico, e per un amico comunque devi un attimino intervenire, perché ti spiego, ti faccio una premessa di 30 secondi. Sai, io odio, io non ho amici, non ho niente, non ho nessuno, non me ne frega. Esatto. Sì, lo puoi dire, fino a prima avevo, esatto, tutti, adesso me ne sbatti i cognomi di tutto e tutti, odio tutti. A me mio fratello mi chiama lupo solitario, io odio feste, matrimoni, ma tutto. Perché quando nessuno ti invita, mi sei un quando mi chiamano per fare le grigliate mi taglierei le palle. Ma perché se non ti chiama nessuno? Odio tutto. A me solo una cosa mi piace, il calcio, che mi fa come cosa che per te non vale, perché un uomo che non gli piace il calcio porta l'assorbente, quindi questo è il tuo caso. Sentilo. Giuseppe, a me l'unica cosa che mi fa star bene è il calcio, quando vedo una partita è come se facessi meditazione, però già adesso immaginati il calcio, questi dieci giorni sono un disastro, purtroppo. Ma il calcio senza pubblico veramente è come andare in Colombia in vacanza col naso rotto, non ha senso proprio. Cioè, cosa vuol dire? Perché uno non pippa, che grandi metafore, però Giuseppe, ti volevo dire, una mattina mi dovevo allenare, sì, e non so perché Parenzo a me mi attrae proprio, è una calamita, perché alla fine tra me e lui proprio c'è amore e odio, proprio no, è una calamita, io non mi alzo, non so perché ho mal di testa, è difficile che ciò, non mi alleno. non so perché giro sulla 7, ma c'era il telecomando, proprio la mano vibrava. Gira sulla 7, gira sulla... Ciro Mirta Merlino in collegamento. Oh sì. Mio Dio, mi sono toccati i coglioni, ero sicuro, infatti, che arriva Parenzo che presenta. Sì. La mamma mia. No, presenta, conduce, che... non presenta. Oh, sì, presenta, vabbè, comunque, Pippo Baldo, Parenzo Giuseppe, conduce. Giuseppe, vabbè, allora... tu sei suo amico, devi intervenire, perché questo uomo qua sta facendo un po' troppi vaccini. Io veramente l'ho analizzato bene. Cioè? Prima era giallo epatite, adesso ormai è bianco, ma è trasparente. E le occhiaie gli toccano le basette. Ma che cazzo ti stai trasformando nei... Che cazzo ti stai trasformando? Ma è che è meglio che fai qualche vaccino? Giuseppe, tuo amico, devi intervenire. Scusami Fabri, perché... ma tu te lo farai il vaccino quando arriverà? Si parla di vaccini in questi giorni. Ma non ci penso minimamente. Dosi più per gente, quello per di Putin bene. Oggi la Russia ne ha annunciato uno, signor vabbè, Putin. Se c'è quello di Putin, sì, se c'è la Putin subito me lo faccio. Avanti. Anche tre. No, lo sai che Giuseppe poi ti fa, manderò le foto se non ci vede. A casa mia, appena apri la porta c'è solo un quadro gigante, tutta la cornice in argento con Vladimir Putin col calice di vino. Appena entri in casa mia, e adesso farò quella del grande Donald numero uno. Scusa Fabrizio, come vai a botte in questo periodo? No, ma sto facendo, però poi ho gli esami del sangue, sono la patente, io devo cioè, fare ogni tanto fine settimana. No, adesso gli esami della patente non sto neanche più bevendo, no, io poi mi devo fermare ogni 3-4 mesi, poi ho gli esami da a me mi ha ritirato per 4 anni la patente, ma poi io posso stare anche senza, io non ho, ne ho già fatta talmente. Ma cosa tanto, fai tutto il giorno? Penso a come romperti i coglioni quella cosa volta. Cosa fai tutto il giorno? Chi ti mantiene? Mi mantengo io perché lavoro. Ma allora, in collegamento però con un posto dove mi sa che sei stato, con il Maxim a Chiasso. Che scopate che ho fatto al Maxim grazie al mio amico. Allora, in collegamento con il Maxim di Chiasso c'è un signore che si chiama Armando, che nonostante tutte le restrizioni, perché dovete sapere che il Maxim a Chiasso, ragazzi, è aperto, non so fino a che ora, credo fino alle 5 del pomeriggio, ci sono varie restrizioni, cioè non possono andare chiaramente i lombardi e dunque c'è una perdita di gente, c'è una perdita di clienti, non c'è dubbio. Il signor Armando, credo, che nonostante tutto resiste e va a puttane. Armando, ci sei? Sono Stefano, volevo salutare Fabrizio, Stefano, che si è divertito un sacco e mi manca quando torni Fabrizio. Una bottiglia torna di champagne, grande. Ma che grande sei stato. Trovarti. Ma io adesso non posso venire, però abbiamo preparato il tavolo al Maxim, Giuseppe con la bottiglia di champagne, dollarino con la zoccolina, che bello. Con la zoccolina, caro Parezzo, con la zoccolina. Chi mi devi passare, Stefano? Armando, passami Armando. Ti passo Armando. Pochi dettagli che c'è la caccia delle streghe qua. C'è la caccia, non ti preoccupare. Armando? La radio. Armando? Sì, pronto, ciao a tutti. Armando, com'è che riesci, nonostante tutto, a... Cioè, essendo frontaliere, riesco tranquillamente a passare alla dogana. Quante volte vai? Ma ogni giorno, no? No, ogni giorno purtroppo non riesco per lo smart working, perché ho anche dello smart working da fare, però appena mi viene possibile, volentieri. Senti una cosa, ma quali sono le tue preferite là? Qual è la tua prostituta, la tua escort preferita? Al momento sto puntando Jenny per questa sera, che tutti ne hanno sempre parlato bene, italiana soprattutto, giovane, e quindi stasera penso che... A te interessa giovane, ti interessa l'anale, ti interessa qualche cosa in particolare? Non interessa un cazzo, a me interessa che in casa... Un bel pompino fatto bene, scoperto, è una scopata, nulla di particolare, di pompino strano, scoperto, esatto. In camera. Quanti anni hai, Arma? 25. Amico, ma vergogna cosa, che Davide, vergogna cosa. Questa che è una roba, che roba incredibile, guarda, un ragazzo di 25 anni, un ragazzo di 25 anni che non è in grado di farsi una storia normale con una ragazza. Ho una relazione fantastica da 4 anni a questa parte, che mi trovo una meraviglia. Che schifo. Mi svuoti i coglioni, sono contentissimo. Ma ragazzi, ti ha spiegato? Ti ha spiegato? Svizzera, lavoro a Lugano, vengo a puttana con una ragazza, trovo il collegamento. Che miserabile. Allora, che no, miserabile, no, no, fermo che un attimo. Armando ti ha spiegato in 2 secondi il fatto che riesce tranquillamente a stare con una ragazza, va lì, come ha detto lui, si svuota i che coglioni tristezza. E probabilmente che il rapporto con la ragazza non è persona triste. Che persona triste che sei, che persona squallida e triste. lì a parlare di me. 25 Scusami. Anni sto vivendo una vita fantastica. Scusami un attimo, il rapporto con la tua ragazza ci rimette in qualche modo da quel fatto che tu vai a svolgere? Nulla, anzi, ero molto molto meglio stare con la mia ragazza, perché non ho, so che non ho rotto i coglioni. Quando voglio che lei non ha le necessità, vengo a scopare qui. Io sto una meraviglia, non la stresso. E lei lo sa, lei ovviamente. Il prossimo step, secondo me, il prossimo step, secondo me, potresti anche dirglielo, sai? Il prossimo step, dire: guarda, ogni tanto ho bisogno di andare a chiasso, svuotarmi i coglioni con una prostituta. Dico, guarda, questo termine. Io posso trovare una ragazza con una mentalità aperta e non c'è nessun tipo di problema. Senti, hai paura del Covid? Diciamo, andare a puttane a Maxime, hai paura, guarda, del Covid? No. Io sto con la mascherina dentro il locale, poi quando vado in camera la tolgo più che altro perché a me. Devo scopare, devo avere le imitazioni di me. Ma non hai paura del fatto? Ma certo, non hai paura del fatto che quella là è stata con altre persone, dunque può circolare il virus dentro il locale? No? Guarda, tutte le ragazze comunque si controllano anche per loro stesse, quindi molto peggio in appartamento quando non gliene frega un cazzo. Sai che non c'è dubbio. È una merda rispetto a qui, quindi io preferisco di gran lunga venire qui, ho le mie certezze e vengo tranquillo. Sei un grande, c'è Armando, ti abbraccio, sei un grande, ma che tristezza, non rompere i coglioni. Ciao Armando, abbracci, ciao. Grande collegamento da Maxim, 25 anni, ti ha fatto un culo così, David. Grande prova, libertà, in collegamento dal lettuccio magico, il grande ritorno, il brasiliano, applausi! Io ti chiedo ancora e poi ancora campa Papa Lorenzo. Finalmente una persona di cultura abbiamo messo, ancora la fila delle stampette, Papa Lorenzo. Una persona di cultura, ancora finalmente. Non ha preso il Covid, ancora non è morto del Covid, Papa. Ma vaffanculo, va. E io ti chiedo ancora. Ma stai in forma stasera. Signor Brasile, consigliarle una cosa in questi giorni in cui sta tornando la seconda ondata del Covid. Sì. Il libro dei promessi sposi del grande Alessandro Manzoni, che lei sicuramente avrà almeno i coglioni. Come? Avrà almeno Alessandro sentito Manzoni. Con Alessandro Manzoni. Che vuol dire? Chi c'ha rotto i coglioni? Dai, vai. C'è l'episodio meraviglioso della peste quando Renzo Tramaglino ha presente la storia, no? Renzo Tramaglino e Lucia Mona Lisa. No, caro, no, Lucia Mondella. Ma porca puttana, No, dico, Renzo Tramaglino entra a Milano e si confronta con il grande tema della peste. E alla fine il Manzoni commenta quella pagina dicendo: il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Che tu lo sai. Se la signora Tramaglini fa le pippe lì in bocchini, a Palermo. Ce ne frega a noi di Tramaglini. Scusa, il brasiliano. Vorrei riportare un po' di ordine in questo caos. Bravo, allora, porta un po' di ordine. Allora, la prima domanda che vorrei fare al brasiliano dopo tanto tempo è questo: tu credi ai virologi che senti in televisione ogni tanto? Sì, ho una risposta rapida. Credi ai signori virologi? Ma cosa ne sa lui? Ma che cazzo, io non mi sono mai messo un giorno la mascherina da quando c'è stato il Covid. Mai un giorno. Mercati, ma la metto niente, nulla. E se ti dicono qualcosa? No, che mi dicono, Giuseppe, non posso. Ti guardano faccia e dicono: Non possono arrivare. Piuttosto, voglio fare un piccolo appelletto. Un campo abbandonato, sto spendendo i soldi di tasca mia. Questo è un appello che faccio al comune di Roma. Sì, perché il brasiliano è sempre tacciato che sono criminale. Allora il criminale sta mettendo le mani in tasca, sto rimodernando, sto rifacendo tutto un campo da calcio per i bambini, barra ragazza, e mette le mani in saccoscia. Perciò, signora Raci, cacci i soldi, signora Raci. Ma come? Se le metti tu, perché deve cacciare la Raci? Mica tutti. Mette lei i mani in saccoscia, prende lì. Scusami un attimo, una cosa. Brasiliano, leviamo i bambini dalle strade. C'è sta a pensare il brasiliano. Te l'ho detto che la legge so io a Pietralata, prende lì. Non è che sei un magnate. Scusami, domanda molto chiara. Brasiliano, in questo momento tu che ti sei rifidanzato comunque. Non sei un mecenate. Di solito sei monogamo, perché sai, io non nel mio libro di cui parleremo stasera con te in collegamento su Facebook, eccetera. Tu sei monogamo o no? Cioè. Sei monogamo o no? Ma diciamo che io quando sono fidanzato sono molto molto molto fedele. Ma ti che dico cazzo la stai a dire, brasiliano? Io quasi, no, ma che sei matto? Io fidanzato, ferma, io nemmeno non... guardo le altre donne. Ma tu non sei per la coppia aperta? Non sei per la coppia aperta? No, io c'ho, io sono la coppa chiusa, anche perché il brasiliano è un po' è piuttosto geloso. Bravo. Cioè, se qualcuno vista. Se qualcuno guarda la tua licina, eccetera, vabbè, se qualcuno si può guardare, se qualcuno ci prova, ha un bellano, ha un bellano, quindi si può se guardare. Qualcuno ci prova, scusami. No, ci prova, non è possibile. Se qualcuno gli manda dei messaggi ambigui, che fai te? Cioè, se qualcuno manda. Ma no, ma sai perché non ci sono i messaggi ambigui? Perché non può capitare. Quindi, siccome non può capitare, non c'ho messaggi ambigui da mandare, capito? Perché sanno che la donna del brasiliano. Ma che sa, che sa. No, sono morti, Carco, la lo sai, no? No, ma adesso morti, è un modo di dire, è un modo di cioè, dire. Non immagino. Io immagino una scena, no? Immagino una scena. Uno va in un posto in una discoteca, oggi non si può andare, ma comunque ci prova con la tua ragazza in maniera come esplicita. Come si chiama la ragazza? Che succede, Alice? Alice, che Alice. No, dice... ma allora, l'altra volta stavamo andando in un albergo nei pressi della stazione, perché tu come sai, vabbè, io sto vivendo fine settimana nei B&B della capitale e mo fine settimana scorso sono stato vicino a casa di Parenzo in quel di Prati. Ma a un certo punto scende Alice dalla macchina. Sì. E questo tunisino, ragazzo tunisino, stava correndo e stava andando incontro ad Alice. Sì. Non mi aveva visto che io stavo facendo il giro dall'altra parte. Quando mi ha visto a me, ora è diventato bianco, mi ha detto: ma io a te ti conosco, amico. Oddio, aiuto, aiuto. Si è messo a correre e se n'è nato. Sicuramente gli voleva rubare la borsa ad Alice. Però quando mi ha visto a me, il ragazzo è andato via. Io me lo magnavo proprio, Giuseppe, ti dica la verità. Cioè, me lo magnavo, già l'avevo puntato, Giuseppe. Cioè, se prendeva la borsa ad Alice, così no, purtroppo io non ce la faccio a correre. Però perché non ce la faccio a correre, Giuseppe. Okay, peso 110 kg, mi sono ingrassato, Giuseppe, di cavere 110 kg, sei ingrassato? Vabbè, ma sparavo a distanza, menavo a distanza, lo sai, no, Giuseppe? Ecco, menavi a distanza, sparavi, menavi è diverso. O c'è certo. Che c'avevi il pezzo dietro, c'avevi. Menavo a distanza, il ferro. Ma che c'avevi? Il ferro, c'avevi il ferro. Vabbè, ma detto ciò, ma papà resta ancora cappa. Sì, ancora. Ma che cazzo vuoi da me? Scusa, però scusa, è interessante con te parlare della coppia aperta. Cioè, tu l'idea, per esempio, di fare lo scambismo in quattro, cioè di scopare in quattro. No. Allora ti dico la verità. Allora, a livello sessuale, quando facciamo l'amore, io quello è il mio sogno erotico, no? Però quando una volta che sono finiti i giochi, è finito tutto lì, capito che ti voglio dire? Cioè? Nel senso, una volta che vengo io, viene lei, poi è finito tutto. Perché ma devi reinventare la coppia, il piacere di magari ascoltare, cioè, ma vorresti un disco. Vorresti fare con Alice una cosa con un'altra coppia? Vorresti ma fare... No. Cioè, no, la vorresti no, vedere no. Scopata da un altro, la no, tua vicina? No. Ma nemmeno io che mi scopo un'altra ragazza, no, ma non esiste, no? Assolutamente. Vedi che è normale. Certo, ovviamente se non sei fidanzato e fino a scappata di casa la porti dentro a qualche locale e la metti in batteria, quello qual è il problema? Tu non gliela metti in batteria, che modo di parlare è? La cosa metti in fregolode, Giuseppe, a troglodita. Ma che vuol dire la metti in batteria? Che modo di parlare Però andiamo avanti. Se ci sarà il vaccino, ti farà il vaccino col Covid? Ma quale? Sulla cappella me lo faccio il vaccino, Giuseppe. Beh, meglio, tutte dosi risparmiate che possiamo dare a persone più intelligenti e più utili le alla società. Le palestre chiuse però ti stanno sui coglioni, le palestre chiuse. Palestre chiuse, chi ha detto? E come chi ha detto? Come chiede? Sono chiuse per decreto. E lui si allena, che cazzo? Dove ti alleni? È fuori legge però. Ma tu ti preoccupa, tu abiti a Prati, io abito a Pietralata, fate lì. Quella Pietralata. Ma non è ragazzi, che Pietralata è un altro stato, scusi. E tu ci credi che Pietralata è famolo Alice, allora ci credi. Ma famo noi chi? Pietralata è Italia, che dici? Ma no, perché è Italia, per me è Pietralata. Voglio capire, c'è stato un tuo collega, il famoso World Star, là come cazzo si chiama? Sì, non conosco nulla. Fratelli, che è andato, è andato in televisione a fare l'elogio degli anabolizzanti. A fare il pagliaccio. Beh, sulla rete di Papa Renzo. Sì, sulla rete di Papa Renzo. Sei stato un po' invidioso. Sei stato un po' invidioso del fatto che lui gli hanno fatto l'intervista. No, assolutamente. Pieno di quelle figure di merda, no. Poi dice che si riempie di anabolizzanti. Ha fatto tutto un video pure si riempie di anabolizzanti. Ma pure Dete. L'ho visto. Ma pure Dete. Ma quello. Pure Dete. Ha fatto figure. Pure te ti riempi di anabolizzanti? Ma io mi riempio, ma so pure cazzi mia, però non è che mi metto in diretta a farmi i peli davanti a tutti. Io. Ho capito, ma quanti anabolizzanti te prendi pure te, brasiliano? Io faccio abbastanza, Giuseppe. Però devi stare calmo pure con gli anabolizzanti. Ma non ti preoccupare, Giuseppe, dai, ma che mi sta a far quadro a me, Giuseppe? No, ma tutto sotto controllo deve essere, no? Gli anabolizzanti fanno tutto male. Tutto sotto controllo, ma io ho cocaina sotto controllo, anabolizzanti sotto controllo. ormai è tutto sotto controllo. Ho capito. Significa che ancora qualche bottarella te la fai ogni tanto. No, no, però siamo aiutato, però la tengo sotto controllo, non ti ho capito. Prima ero schiavo, adesso sono il padrone di me stesso, che è diverso. Ah, adesso riesci a tenere tutto sotto controllo. Certo. Cioè, tu conosci un tale professor Galli che è molto in televisione. Professor Galli, un virologo. Il portiere del Milan. Galli, da Sotti, Maldini, Costa Gutta, Baresi, Donadoni, Colombo, Bambini. E la signora Ilaria Capua. La signora Ilaria Capua, la conosci la signora Ilaria Capua, un'altra molto ascoltata. Capua, a napoletana, mi pare, quella che fa giornalista, la IE. È una professoressa, dottoressa. Una... Vabbè, bene, che ha fatto? Ma no, ma una che viene sempre in televisione a parlare del parla virus. Di virus. Il professor Bassetti, per esempio, lo conosci il professor Bassetti? Bassetti, Rio, Bassetti. Bassetti, quello lì che faceva la pubblicità, te la ricordi? Che ne so, Zangrillo, vediamo un po'. Se Zangrillo magari lo conosce, vedi, professor Zangrillo. Ma che cazzo stai a dire? Giuseppe, ma chi sto questi? Ma non gliene frega il cazzo. Ma come fai a non sapere nulla di quello che accade? Il vaccino non lo farai. Mi sembra di capire, il vaccino non lo farai. Ma io il vaccino glielo faccio parlarti, al cervello glielo faccio parlare. Vaccino non lo fa, ma lui di che cazzo ha bisogno sul virus brasiliano? È una vita che va in giro senza un cazzo. Se, come dice lui, si è mangiato pure, si è bevuto pure l'acqua di fogna. Che cazzo l'acqua io... delle pozzanghere, ha fatto tutto. I vaccini e cose, ma che cazzo state a dire? Ma io dico, mandate a giocare i ragazzini, sono... mezzo le fogne, ma famo come in Brasile, che giocano mezzo la merda, fateli stossare di fango. Mo vivono dentro le campane di vetro, vivono. Scusa, prima, come eravamo prima, Giuseppe. Prima ha chiamato una signorina proclamandosi vergine a 21 anni. Hai questa passione tu? Non credo che tu abbia la passione, diciamo, no, per... vergine, guarda, prima io ho sentito con molta attenzione e adesso, guarda, gli stavo prendendo le parti. Vabbè, quella torca sua da chi è mara, la torca sua da chi è mara. Lo vedi, anche sei dalla parte di Parenzo da questo punto. No, stavolta certo. Parenzo c'aveva ragione, il povero Parenzo, capito? C'aveva ragione. Povero Brasile, ti abbraccio, a presto. Ciao. 22, ciao. Ciao, ciao. Arrivederci, direttore. La zanzara. Culo palle cazzo, cazzo palle culo. Dico mio, l'intervento di Squirting Angel mi ha fatto perdere la testa. Quando parlava lei non riuscivo a connettere, leggevo le mail, rileggevo la stessa riga 20 volte perché non riuscivo a capirla. Continuavo a sentire quella che diceva, sì perché Cruciani... Amico mio! Però, il tuo microfono nel suo culo ci starebbe. E comunque, visto considerato che si dice che il culo di Cruciani sia molto chiacchierato, non so se... Squirting Angel abbia ragione dicendo il culo di Cruciani non è allenato per ospitare un dildo di un cavallo. Ma sessualmente ambiguo, è ambiguo. Allora ragazzi, Pietro da Torino, grandi sorprese ancora qui, non è finita, non è finita, manca quasi un'ora, non è finito niente. Cosa? Non è finito nulla, cosa? Manca quasi un'ora e cosa? Sembra accaduto di tutto già. Mamma, di tutto, com'era di tutto. Quello che faceva cosa? Pietro da Torino, vai Pietro, dimmi. Eccomi, arrivo subito dopo una sequela di decelebrati da Brasile, Fabrizio da Milano. Decelebrato sarà tua sorella. Beh, insomma, non erano degli intellettuali, questo è sicuro. Il problema è che ormai porre più decelebrato di Brasile. Vabbè, allora oggi ho chiamato per incazzarmi con Parenzo, che è riuscito a difendere Arcuri, uno che riesce a imporre i prezzi delle mascherine, roba che alla prima lezione di microeconomia, al primo anno, ti insegnano che è una cazzata perché non ci vantaggi. Dalle mascherine in poi una serie di figuracce, adesso deve gestire pure la distribuzione. Beh, non mi pare, ma però la distribuzione è andata male in questo momento. L'approvvigionamento continuo nelle scuole all'inizio ha avuto dei notevoli problemi, ma ora non mi pare che l'approvvigionamento nelle scuole, nei servizi pubblici di utilità. Parenzo, io sono la maggioranza silenziosa, ma adesso mi fa incazzare perché paventi sempre di leggere i giornali. Ma te lo sei letto almeno l'editoriale di domani? Vabbè, Pietro, assolutamente, Pietro, cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Oggi... Ragazzi, tutta l'Italia è scandalizzata dal fatto, che un signore che ha gestito male alcune cose, ed è evidente alcune, che ha gestito bravo, male sì, alcune giusto, cose. Alcune cose, bravo. Un signore ma avrà, alcune, tutte, secondo tutte, me, tutte, tutte avrà la responsabilità della distribuzione dei vaccini in Italia, che sarà una delle cose più incredibili dei prossimi mesi, posto che i vaccini ma servano. Ma lui oggi che come non che i vaccini servono? Cosa dici? Ciao Pietro, ciao. Cosa vuoi dire posto che i vaccini servono? Ma che sei diventato un negazionista? No, non sono un negazionista. Non sono un negazionista. Nessuno contro sa, la scienza. Nessuno sa se questi vaccini testando. Serviranno. Come nessuno lo, 90 lo sa. Che lo stanno nessuno testando. Lo sa, fase nessuno. 3. Però verrà ragazzi, certificato voglio, dall'EMA. Cos'è l'EMA? Non voglio, sapete niente. Vi voglio presentare un signore che parla dalla Croazia. Che si chiama Andrea Aromatico. Lo saluto. È uno storico, un saggista, ma è soprattutto un grande cacciatore. Buonasera, Aromatico. Ciao, come stai, Cruciani? Bene, bene, Aromatico, bene, molto bene, Andrea. Allora, in Italia non si sa bene se si può cacciare o no. Diciamo subito questo. Beh, alcuni no, cacciatori, adesso no, durante il Covid non si può. Non lo so, non lo so. Perché si creano assembramenti attorno all'animale, ad esempio. Può darsi follia totale, comunque. Beh, non lo so io, però. Alcune così associazioni, mi hanno detto degli amici cacciatori. Alcune associazioni chiedono addirittura dei rimborsi per i danni che avranno da questa può cosa. Essere, ma questo non ci interessa essere. Al momento. In Croazia si può cacciare, Aromatico? Assolutamente sì, ma come in tutti i paesi, prima l'avevano chiusa per 5 giorni cautelativamente anche in Francia, poi è stata riaperta, ma per ragioni profondamente scientifiche. Cioè? Basta fare un passo indietro e vedere tutti i morti che ci sono stati per Covid, non voglio entrare nel discorso, sì. Presentavano tassi bassissimi di vitamina D ed erano tutti anziani. Sì. Che cosa c'è? E con varie patologie. Sì. Per che ragione? Quella mancanza di vitamina D devasta il sistema immunitario e lo indebolisce in maniera. E dunque tu dici uscire, andare a caccia, prendere aria, eccetera, eccetera. Prendere il sole. Hai bisogno degli UV perché altrimenti la Luca, mi stai dicendo che cacciare è un'attività salutare che porta dei vantaggi al corpo. Ma comprovatamente, perché esercizio fisico, ma dai tempi di Platone, dal Cinegetico di Senofonte, fino a quando. Sì, ma fino a quando non ti scambiano per un leprotto, quando il tuo compagno di caccia che non ci vede da lì a un metro, poi ti scambia per un cinghiale e ti tira una fucilata nel culo. Ma cosa c'entra quello che tutte le settimane? Tutte le settimane che gli italiani si sparano tra di loro. Allora guidare la macchina, arriva il tuo compagno che è imbriaco e va a sbattere, ti ammazza in macchina. Esatto, quello che uguale, va giù per un posto. Ma che cazzo di discorso è? È un discorso assurdo, infatti, è un discorso folle. Tutte le cose comportano dei rischi. Tutte le cose comportano dei rischi e evidentemente anche la caccia comporta dei rischi, mi pare abbastanza evidente. Chi ma questo non... è il rischio di vivere, ragazzi miei, c'è in qualsiasi cosa, ci sono morti nell'escursionismo, muoiono per fare nuoto, si muore dappertutto. Adesso quest'epoca è ossessionata perché vuota di tutto dall'idea della fine della morte. Strano poi in un paese che si autodefinisce cristiano. Ma tu hai paura del Covid oppure pensi che sia tutta una finta, una farsa, una barzelletta? Non me lo far dire per cortesia. No, no, dillo senza problemi, allora, dai. Il fatto è che nel mio lavoro, io faccio il manager a livello internazionale e soprattutto poi per una grande azienda che è Nutrigea di integratori, ho la fortuna di lavorare con primi candidati al Nobel per la medicina e la verità dei fatti è che il famosissimo Covid-19 non è mai stato veramente isolato. E dunque? Mai. Non c'è uno studio scientifico reale. Cioè tu mi stai dicendo che è tutta un allarmismo esagerato? Ma basta guardare, bisognerebbe fare un'analitica dei dati. Lo sai cos'è una cosa, Cruciani, che a me mi spaventa? Prima ho sentito Parenzo definire tutto la scienza. La scienza non può aver paura del dibattito. Perché ragione? Infatti, anche basta che si fondi su dati reali, però. Basta, la scienza 4, vive di dibattito, vive di confronto. Ti prego, Parenzo. Vive di scoperte, ma non di falsità. Cioè scusami, no, Parenzo, non è un dibattito scientifico, però dire che il vaccino fa male non è un dibattito scientifico. Ma non c'è, ma quale metodo fascistello? Ma non dire cazzate, ma quale metodo fascistello? Ma quale ragionamento? Ma si chiama rispetto umano. Ma sì, ma figurati, parla, certo, ma figurati. Allora, fammi finire un ragionamento. Ho detto solo che non è un dibattito scientifico negare la validità dei vaccini, fine, non è scienza, è tutta nata. Qui nessuno stava parlando. Il dibattito scientifico procede in modo dialettico. La chiudo in questo modo, lasciamo perdere, voglio capire. dire da aromatico una io cosa. Voglio il dibattito, perché ragione non aromatico, c'è. Prima, prima di tornare a parlare di caccia, voglio dare una parola chiara su questo. È poco più di un'influenza, secondo te? Che è stata esagerata e viene esagerata per qualche come dire, qualche mira e per qualche perché fa comodo a qualche potere, ad aziende farmaceutiche? Ne sono assolutamente convinto. Sei convinto di ecco questo. Ecco la puttanata. Ma perché la puttanata? È convinto di questo, perché cazzo? Ma perché se molte persone pensano questo ma è una perché puttanata? Perché anche nel Medioevo magari qualcuno che deve garantire la vabbè, pianta, torniamo alla bene, caccia. Certo, cosa cacci di solito tu, aromatico? Cosa? La virologia di oggi sarà il terapiattismo di domani. Dimmi, spiegami una cosa, che cosa cacci di solito? Le caccia stronzate. No, io sono prevalentemente un cacciatore con i cani da ferma, quindi vado a beccacce, fagiani, sì, queste sono le cacce che faccio. Cacciare il più possibile prelevando il giusto in maniera scientifica, in maniera etica, cinghiali. Il cinghiale si caccia qui in Croazia prevalentemente, non soltanto di selezione, con praticamente ci sono dei piani di abbattimento e viene considerato in molte zone un animale totalmente nocivo. E quindi tu li hai ammazzati dei cinghiali? Li hai ammazzati? Nocivo, ma quando mai nocivo? Perché sarebbe nocivo? Beh, in Croazia viene considerato nocivo per l'agricoltura, per una serie di cose. Spiegami, ma li hai ammazzati dei cinghiali ogni tanto o no? Ma certo. Ma tu di solito fai colombacci, fauna di che tipo? Poca roba. Prima ero più onnivoro quando ero ragazzo. Quaglie, pernici. Sì, quaglie, pernici e beccacce prevalentemente. Allora, Daniela Martani, come lo consideri aromatico? Un coglione? Come lo consideri? Un assassino? Tu mi hai in questo momento un'altra luce. Tu mi hai dovuto far sentire questo poveraccio, questo schifoso di essere schifoso, perché non può essere definito umano una persona, un essere, non riesco neanche a definirlo umano. Perché? Umano. Perché? Uno che si diverte, ok, con un fucile ad andare a ammazzare degli animali inermi, liberi, ok? Perché sono liberi, sicuro, inermi e sicuro. È molto annoiato dalla sua vita, è un po' sfigato. No, perché di arte e sport, perché la caccia è arte e sport. Ma mi sembra un po' sfigato questa persona, che dice, pretende pure di parlare di eticità e di rispetto. Sì. Lui che parla di eticità e di rispetto, lui che parla di questa roba qua, quando praticamente la gente ormai non può più andare a farsi una passeggiata nei boschi perché rischia di essere colpita da questi bastardi che vanno con i fucili, una ragazza, cioè non ho capito, aromatico secondo te è un bastardo. Una ragazza, a parte sono 90 tra morti e feriti la stagione quella precedente a questa, ok? Ma sono cose che succedono, sono cose che succedono. 27 persone e più di 60 feriti. Vabbè, allora ok, una ragazza domenica è stata colpita da un cacciatore, hanno ucciso. Ma sono cose che accadono da sempre. No, non accadono, perché se la gente non va con i fucili nei boschi a sparare, non accade proprio un cazzo di niente. Allora io adesso pretendo, lo dico qua, te lo dico qua in diretta a te, visto che lo Stato italiano dice che loro vogliono tutelare la nostra salute, la nostra incolumità, io pretendo, ok, dal ministro Speranza, da Giuseppe Conte, dal governo, che venga abolita immediatamente la caccia, perché è un pericolo per le persone, perché tu rischi di prenderti una pallottola mentre stai camminando. Come lo definisci questo Andrea Aromatico? Come lo definisci? Come lo definisci questo Andrea Aromatico? Andrea Aromatico che ha parlato adesso con grande schifo. Cioè io una persona così, io la schifo, mi fa schifo. Cioè, è un assassino, secondo me. Assolutamente sì, una persona che si vanta di andare a con un fucile, allora con un fucile. Certo, capito? Come le ammazzi? Poi con il pisello, come le ammazzi? Già te l'ho ripetuto 100 volte. Dovete andare senza niente nei boschi. Aromatico, rispondile tu. Aromatico. Un cinghiale come correte a gambe levate. Quando ha finito di sgazzare, quando ha finito di sgazzare la Martani per mettersi in mostra, oltre a fare le foto a buco di culo su Instagram in continuazione, poi dopo potrò parlare anche io in maniera civile. Che foto fanno? Vai, dimmi, Andrea, dimmi. Che foto fanno? Allora, non le ho viste. Assassino, bastardo, eccetera, eccetera. Così è la Il problema della signora Martani non sta che in questo mondo, quello della caccia, ci sono tantissime persone plurilaureate con una grande cultura e c'è una tradizione ancestrale che, per l'appunto, come spiegavo prima, risale ai tempi da Platone, Senofonte, e quindi c'è un bisogno dell'anima per tanti di riconnessione con la caccia, un bisogno dell'anima di mettersi in contatto con la natura, hai capito Martani? Questo è il punto, un bisogno dell'anima. La caccia, non mangio un pollo è una vita per una vita, perché se la mettiamo sul discorso delle vite, faccio un esempio, Cruciani, il bird watching, attività bellissima, tu prendi la macchina per andare a fare bird watching, sì, perché no, ovviamente a meno... Aspetta, Martani, mi faccia parlare, non sia... Zitto, stai dicendo una marea di stronzate, allora vai a vivere nelle caverne, capito? Se tu parli di cose ancestrali, vattene a vivere nelle caverne, devi andare a vivere nelle caverne, devi accenderti il fuoco te con i bastoncini di legno, hai perfettamente ragione, capito? Infatti è quello che ho fatto, Martani, esattamente quello che ho fatto. Ma io ho fatto una scelta. Dove vivi te? Dove vivi? Un appartamento? Stai in un appartamento? Io vivo in una casa in mezzo ai boschi, è totalmente ecologica, riscaldata esclusivamente a legna che mi accendo io, e lo sa, dai miei boschi. Vede che ci ha preso in pieno, è stata bravissima. No, ma è così, macchina. È così. Questo può essere la macchina. È così. Ma zitto, stai. Voi soltanto quando vi interessa a voi, perché tu poi la tradizione, la roba ancestrale, quando poi fai la casa comoda con... Allora ragazzi, fermi un attimo che torniamo. Andrea Aromatico è un cacciatore particolare, c'è uno che ama tutto della caccia, anche le situazioni più estreme, cura i fucili. Sai come si cura un fucile, Martani? Sai come si carica un fucile, come si lucida un fucile? Senti, lo sai o no? No, non mi interessa proprio, a me un uomo come Aromatico ti fa schifo. Tutti i cacciatori, a parte che allora i cacciatori sono un branco di solito vecchi, rincoglioniti e anche impotenti, secondo te, vecchi rincoglioniti, che siccome non hanno un cavolo da fare tutto il giorno, ma sono pure impotenti, una volta hai detto pure impotenti, vivono nei paesi, no, nei paesi purtroppo, ma non perché hai detto una volta che fare, perché che hai detto a rompere i coglioni, ma perché hai detto una volta che erano impotenti, cioè che il fucile era un prolungamento del cazzo, perché dunque non sono certo assolutamente vero, fermo là che torniamo. Onorevole Sgarbi deve uscire dall'aula, sospendo per 5 minuti la Zanzara. Allora ragazzi, qua c'è un problema. Il mio ragazzo vi ascolta sempre e ogni volta se ne esce con cose strane, la stimolazione anale, mi voleva leccare i piedi. Ora, proponete qualcosa tipo massaggi con l'olio, basta, dita nel culo. La Zanzara. Piuttosto che una vita come Cruciani senza mai ubriacarsi e drogarsi, preferisco farmi sfondare il culo da Ruggero. Allora, abbiamo ancora con noi uno dei più grandi cacciatori italiani, saggista, storico. Storico dell'arte, se non ricordo male. Abita in Croazia, si chiama Andrea Aromatico. E quanto è bello montare un fucile, Andrea, montarlo e poi andare a caccia, pulirlo, lucidarlo, eccetera. E poi la sensazione che si ha a uccidere, che ne so, una beccaccia, a uccidere un volatile, che sensazione è? Allora, il fucile, bisogna partire proprio, mi piace che Parenzo, lo ringrazio, ha ricordato anche di essere stato storico dell'arte. Certo. Ci sono la parola arma e artus che derivano dalla stessa identica radice. E arte altrettanto, il braccio umano che trasforma qualcosa. L'arma è stata la cosa con cui l'uomo si è emancipato dal suo livello di bestia, elevandosi al di sopra delle bestie. E se vediamo soprattutto la tradizione armiera italiana, quella di Garzone Valtrompia, è un'eccellenza planetaria. Assolutamente, la Martani la vorrebbe cancellare, vorrebbe cancellare le fabbriche di armi. No, ma che dovrebbe fare, Cruciani, te lo dico io, quell'arma se la deve rivolgere verso se stesso e premere il grilletto, così ci togliamo un cacciatore in meno dalla faccia della terra, tanto sono persone inutili, ma che non sanno che cosa significa. Sei impazzita, cioè si dovrebbe ammazzare. Posso ricordare qualche persona Martani, quasi civiltà e progresso, tu non sai cosa significa. Tutti i cacciatori, voi non siete rimasti all'età della pietra e dove non avete il diritto di vivere nell'evoluzione di un pianeta che si evolve, capito? C'è evoluzione. Martani, tu stai come una che stai pesciarola, la finisce di sgazzare come una pesciarola. Ma quanto mio, è volgare. Se fossi nato negli Stati Uniti dell'America del Sud, tu avresti i neri come schiavi a casa tua, perché ancora stai ma a quel livello là, di, hai ma capito? Ma sfigato, tu e tutti i cacciatori che per fortuna adesso, almeno adesso in questo periodo di lockdown, e spero a sto punto che dovete rimanere chiusi dentro casa per tutta la vita, capisci? Perché voi e tu dovresti tutti morti, tutta Europa sta morti come di matti, ce vanno pure più di prima, sonotici, hai capito? Tu ma devi tu li vorresti questo. Tutti allora. Morti cacciatori li vorresti, Daniele, li vorresti per tutti. Me sono inutili, sono proprio la feccia vera, sai, la feccia proprio, sono delle persone talmente vigliacche che ti ripeto non hanno il coraggio che se morissero tutte improvvisamente non tu stapperesti le bottiglie di champagne, diciamo ma la verità. Dimmi un po', ma perché mi dovrei preoccupare della morte di un cacciatore, ma sai che cosa me ne frega? Allora, ma è un essere umano, uccidono, ma posso dire, parlare? Per fortuna ti uccidono fra di loro, perché la maggior parte dei morti ogni anno sono tutti cacciatori rincoglioniti. È viva, dici tu. A questo punto, guarda, a questo punto, tanto non è che sono tanti. Aromatico, che dici? No? T'ha detto di tutte, te l'ha detto di tutti i colori, tanto figura. No, vabbè, ma io mi dispiace, non riesco a stare a quel livello lì. Abbia pazienza, Cruciani, un paio di lauree me l'hanno date, master e robe varie, ce l'ho. Io mi sento in compagnia di gente. I cacciatori come sono anche laureati ogni tanto. Giacomo Puccini era uno dei più grandi cacciatori, Hemingway è un grande cacciatore, Steven Spielberg è un grande cacciatore. Quindi la signora Martani vorrebbe eliminare i quattro quinti dell'arte planetaria perché fatto da della gente inutile, secondo lei. Noi non ce la faccio a dirlo con quel tono da pesciarola, lo direi in maniera diversa, che secondo lei vanno proprio eliminati dalla faccia della Terra. Assolutamente sì, siete peccia, siete sì, virus. Federico II, Federico II contro di virus, Svegia, no? Che lei non sa manco chi cazzo è, ignorante come un fosso, solo le foto ma su chi? Instagram sa fare. Federico II di Svevia, la presente il castello che ha costruito ottagonale, anche l'autore De Arte. Ma guarda che prende per 100.000 anni fa, capito? Dove è rimasto questo? Se le altre non le capisce Martani. Capito dove sei rimasto te? Beh, che sia una somala, la Martani non capisce. Lo capisce, è un'attività che ha svolto. La caccia è vita, la caccia è storia, storia. Sono stati cacciatori fra i più grandi presidenti del mondo, mi dispiace per lei. Tante super personalità fino a Indro Montanelli sono stati cacciatori, la perdono per la sua ignoranza, però porca miseria, studi prima di parlare, sì, invece sì. Di parlare solo come una pesciarola, urlare come una bestia. Martani, sì. Aromatico ti ha dato una lezione di caccia e di storia di caccia, eccetera, per te è semplicemente un mentecatto, l'hai già detto, che te devo dire? Ma certo, ma io sono contento di stare con Hemingway, ma tu pensa, scusami Cruciani, pensa, no? Un poraccio sfigato che si diverte ad andare a ammazzare, ma tu come lo definiresti uno così? Ma perché? Ma ti ha spiegato che un'altra... Ma non uccidere, ammazzare un uccello! Ammazzare un uccello non è come ammazzare un essere umano. Lui non sa che cosa significa andare al cinema. Ma che ne sai? Ma non credo. Una mostra, andare a ma un che teatro, ne sai? Che ne sai? Le mostre le ho curate e le ho fatte. I libri di storia dell'arte li ho fatti. Per il delle cinema attività nella vita. Quindi, che sono Martani, molto più per favore, di andare a le foto un buco di culo su Instagram. Su questo c'ha ragione. Su questo però c'ha ragione lui. Ha detto si faccia le foto al buco di culo su Instagram. Su questo però c'ha ragione lui tutta la vita, cioè, ovviamente. Che cosa? Ma no, ma sul fatto che gli mangia la merda in testa, la minestra in testa alla Martani, aromatico, che sia un uomo di cultura è fuori di dubbio, ovviamente, ma di che stiamo parlando? È un confronto tra titani, è come mettere a confronto Einstein col Brasile, cazzo, ma questo mi pare abbastanza evidente, dai. Vabbè. Parenzo ha vinto una cena di cacciagione quanto no, vuole. No, ma dopodiché, sull'altra questione. Ciao, invece... ciao aromatico, ciao Martani, sì. ciao. La zanzara. Cruciani, ho deciso di regalare al fidanzato di mia figlia il tuo libro Nudi. Molto bene. Con la carta docente. Siamo veramente al top. Che vuol dire con la carta docente? Non ho idea. Con il bonus dei docenti che possono hanno dei soldi del governo sì, da spendere. Carta docente, in sì, carta docente, sì. Stupendo. Allora, mi sta sempre più simpatico, ragazzi, il governatore, il neo governatore della Calabria dopo la morte della Santelli, che si chiama Spirli, omosessuale. Ma no, su quello non c'entra, cosa vuol dire? Omosessuale con... Ma non vuol dire niente. No, ma uno molto irriverente, uno che non sopporta le lobby gay, eccetera, eccetera. Sentite come ha risposto oggi a Tagadà l'ipotesi di Gino Strada, ipotesi per me allucinante, Gino Strada che si dovrebbe occupare della gestione Covid in Calabria. Ma Gino Strada ha fatto ospedali in Afghanistan, sì, non riesce a farli in Calabria. Ma anche c'entra gli ospedali, non è questione di ospedali, ma perché devi scegliere Gino Strada? Sarà fatto, meglio di quelli di prima, ha che costruito hanno scelto, ospedali, curato gente in zone di guerra. Ma cosa c'entra uno che fa il medico? Cosa c'entra Gino Strada che deve fare il commissario del Covid in Calabria? Ma ragazzi, ma che roba è? Un nome messo lì, come specchietto per l'allodole, dicendo: cazzo, dopo due disastri che abbiamo fatto consecutivi, mettiamo Gino Strada. Beh, un aiuto lo ma può che dare cazzo anche lui, vuol dire? Sicuramente, ma non lo può so, essere può competente. Darsi. Senti come ha risposto il mitico Spirli. Senti, aspetta. Non parte, se questo partisse potremmo andare. Parte. Arrivi forse Strada? Le fa piacere che arrivi forse Gino Strada, Spirli, visto che ha citato il commissario al Covid. E diteci dove dobbiamo scavare i pozzi. Ma cosa c'entra Gino Strada? La Calabria è una regione dell'Italia. Non abbiamo bisogno di medici dizionari africani. Non ne abbiamo necessità. Noi abbiamo bisogno che in Calabria, dove ci sono fior di professori, fior di lettori, si cerchi qui chi si deve occupare della sanità calabrese. Non abbiamo bisogno di essere schiavizzati nella nostra sanità. Ora basta. È una vergogna che il governo deve mettere fine. Fine! Vabbè, insomma, se dice non abbiamo bisogno di missionari che vengono dall'Africa. Noi, cioè, perché dall'Africa? La Calabria è una regione italiana, però anche Gino Strada è italiana, insomma, voglio segnalare. Non è per quello. Lì sta sui coglioni che un governo scelga uno che non c'entra niente con l'amministrazione della Calabria. È vero che non ha dato prova, come dire, di grande. Beh, no, esatto, l'amministrazione della Calabria. I locali, diciamo. Maurilio dalla provincia di Pordenone. Maurilio, provincia di Pordenone, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo fare una sottolineatura riguardo a una frase che tu hai detto nella scorsa trasmissione, e faccio un riassunto per i radioascoltatori. Cioè? A un certo punto del grande discorso si diceva che la monogamia è un'istituzione culturale, per cui in realtà è soltanto un costrutto che ci siamo dati. Beh, bla, la monogamia sì, assolutamente. Cioè, In realtà non è vero. Ma no, come mi dispiace. Cioè, no, perché gli uomini la monogamia... non erano per natura gli uomini non sono monogami, non erano monogami. Poi dopo la monogamia è una costruzione culturale. Parliamo di massa. No, vabbè, uomini intendo genere umano, dico, no? Maschi, femmine, uguale, non c'è differenza. No, aspetta, perché in realtà la monogamia in tantissimi mammiferi è comunque presente, anche in quelli vabbè, adesso più non possiamo metterci a fare pecini, una gibboni, non possiamo metterci eccetera. A fare una discussione. Perché per questo vai pure ancora prima, cioè, ma non possiamo metterci a fare qui, amico mio, esempio certi uccelli, non possiamo metterci a fare qui una discussione sulla storia della monogamia, sulla storia della monogamia. Voglio dire, francamente no. Il fatto di dire che la monogamia sia un'istituzione culturale, ma certo, è una frutto, bugia, ma non è una bugia, i frutto si innamorano di una, ci passano tutta la vita. La vera istituzione culturale è la prostituzione, e ti spiego perché. La cosa culturale è la prostituzione, che vuol dire? Esatto, cioè nel senso che soltanto l'uomo ha inventato il fatto di dire c'ho la mona, non è vero, una roba non è vero, per cui anche tutti vorrebbero parlare, anche i primati si prostituiscono. Per soldi, sinceramente no, semmai per, si lega gli studi, semmai per accaparrare un territorio. Vabbè, Maurizio, ma hai rotto il cazzo, va, ciao. Allora, chiamiamo un signore, una nostra vecchia conoscenza, che è il direttore di Imola Oggi, che si chiama Alfredo Manocchia, Armando Manocchia. Che ha qualche idea particolare sul nuovo ordine mondiale? Non è la parola più pronunciata degli ultimi giorni. Il nuovo nulla ordine mondiale. Armando ultimi Manocchia, giorni. Ultimi mesi, diciamo. Pronto? Manocchia? Sì. Sono Cruciani, come andiamo? Come andiamo? Come vogliono gli altri. Per te non ho capito, qualcuno sta instaurando in Italia una specie di dittatura sanitaria, che cosa? No, l'hanno già instaurata una dittatura. Cioè, noi siamo in dittatura, secondo te? Beh, insomma, se tu non te ne rendi conto, sparati, insomma, no? No, io non mi voglio sparare, innanzitutto. Ma tu ti senti in dittatura, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, ma in realtà se ti senti in dittatura... Non dire boiate. Non è vero che io posso dire quello che voglio. E come no? Perché se io laddove ho la possibilità di scrivere, dico quello che non piace... A questi coprofagi. Coprofagi? Chi sarebbero i coprofagi? I mangiatori di cacca. Sì, ma chi sarebbero i coprofagi? A questi mangiatori di merda, di cavallette e di bistecche artificiali, praticamente mi censurano. Quindi non posso dire quello che voglio. Io non ho capito una cosa. Allora, cominciamo dalle basi. Il Covid esiste, giusto? Il Covid esiste. Giusto. C'è un'emergenza sanitaria, ok? Sì, però viene enfatizzata, viene gonfiata, viene esagerata rispetto alle sue potenzialità letali. Muoiono quelle persone che hanno patologie pregresse molto molto complicate. E dunque, punto. Che vuoi dire con questo? Loro hanno approfittato di questa emergenza sanitaria per instaurare una dittatura a tutti gli effetti, un'emergenza democratica, una dittatura a tutti gli effetti. Questa non è la solita dittatura a cui sono abituati gli italiani e che, ti dirò, purtroppo a me, a molti piace anche. E invece che dittatura è? È una dittatura mondiale. Ah, mondiale, addirittura. Non è mica farina del sacco di questi quattro scimmie. Ma dove ha origine, però? Sì, ma dove ha origine questa dittatura? Cioè, da dove parte? Chi guida la baracca? Ecco. Questo è il punto. Allora, è quello che viene chiamato nuovo ordine mondiale. Sì, ma chi sono? Stanno cercando di instaurare è un nuovo governo mondiale. È quello che sta propinando una vittoria rubata a quel personaggio squallido che si chiama Biden. Alla francese, io lo dico in francese, Biden. Cioè, tu stai dicendo nuovo ordine mondiale ridere, vuole truffare, vuole fregare la presidenza Trump sostanzialmente con dei brogli, ci vuole imporre. Non vuole, lo ha fatto. Adesso Trump vuole fare in modo che non sia così, per questo ha fatto tutti i ricorsi che sta facendo. Ma che c'entra col Covid questo? Sono gli stessi? È la stessa gente, è il nuovo ordine mondiale, vogliono instaurare, stanno instaurando un nuovo governo mondiale. Ma tu, quando si riuniscono questi stronzi al Bilderberg, che tu non li senti perché non li posso sentire né io né te, ma quando si riuniscono a Davos o a Davos, come si dice, in altri posti dove vengono convocati dalle multinazionali, dai cosiddetti poteri sovranazionali, no? Ma questi che c'entrano col Covid? Cioè, questi qua? C'entrano che questi multinazionali dicono a questi capi di Stato invitati da tutto il mondo, e sono la stragrande maggioranza, allora? Dicono quelli che sono le linee, gli indirizzi. Ma ho capito, ma col Covid che c'entrano? Ci vogliono imporre il vaccino? Ci vogliono imporre l'emergenza? Perché, dicono che c'è un'emergenza? Giuseppe, c'entra perché questa gente qui sembra che abbiano detto che siamo troppi su questo pianeta. Ah, vogliono diminuire la popolazione mondiale, secondo te? Così si legge in giro. Se è vero questo, e io ti ci metto il se, per me è vero, come ci metto il se. Ah, per te è vero, però vogliono diminuire la popolazione mondiale. L'unica maniera per farlo, non gli possono sparare in fronte come piacerebbe a te. E allora che cos'è? Attraverso l'impoverimento, attraverso le malattie, attraverso i vaccini, diminuisci la popolazione. Perché coi vaccini non ho capito, ci si ammala coi vaccini? Beh, certo che ti fanno i vaccini, ti fanno bene. Cosa ti mettono di solito i vaccini fanno bene, cioè salvano un sacco di malattie. Ti dico, sono contro l'obbligatorietà dei vaccini. Ho capito, quindi, ma stai dicendo che attraverso i vaccini, l'impoverimento, eccetera, vogliono diminuire la popolazione? Lo confermo. Parenzo, come lo giudichi tu questa manovra? Grazie. Dunque, mi chiedi un giudizio Ho detto qualcosa di grave, mi mandate la Gestapo? Mi hai chiesto un giudizio su come giudico... Signor Manocchia, signor Manocchia. Se dovessi semplicemente, in una parola, direi che è un coglione. Ecco, in modo molto semplice, senza aggressività, che è un coglione. Scusami, un emerito coglione. Un emerito, è merito. Dimenticavo emerito, coglione. Ho dimenticato la parola emerito. Emerito, stracoglione. ho dimenticato anche la parola strada. Mondo di merda lì. Quale mondo? Quale sarebbe il mondo di merda? Quel mondo di merda lì di cui stiamo parlando. Lui fa merito, parte di quel mondo di merda. Cioè i Rothschild, le grandi famiglie, Bill Gates. Lui fa parte di quel mondo di merda lì. Cambiamo discorso. Ma quale sarebbe se facessi parte della famiglia Rothschild? Non sarei qui a sfracellarmi i coglioni. Aspetta, aspetta. Con un idiota come te. Aspetta, Manocchia. Manocchia, voglio capire una cosa. Chi è quel mondo lì? Qual è quel mondo? Qual è quel mondo? Se tu pensi che di rubarmi il tempo per parlare con questo pezzo di merda, tu sbagli. No, ma quali sono le famiglie? Vorrei capire quali sono le famiglie. Ma quale, non mi interessa parlare di famiglie, le conoscono tutte, le conosciamo tutti. Non parlare del sesso degli angeli, parla dei problemi principali. Noi siamo qui a sentire le stronzate che dice Casalino e quell'altro scimunito di Conte, che nessuno di noi ha eletto, che risponde teleguidato dai poteri sovranazionali. Ma chi sarebbero? Chi sarebbero? Non mi fai parlare, ma sono i grandi della terra, quelli che hanno i soldi, a cominciare da quel pezzo di merda di Bill Gates, a cominciare da lui. Scusi? Non solo i Rockefeller o gli altri, a cominciare da lui e tanti altri. Il demonio c'entra qualcosa? Il demonio? Torniamo a casa nostra. Ma il demonio c'entra o no il demonio? Spiegami una cosa. Ma che cazzo ne so io se c'entra il demonio? Se c'entra il demonio non lo so, ma qualcuno mette in mezzo che questi siano dei satanisti, non c'è dubbio. Ma chi sono satanisti? Chi sono satanisti? Questa gente di cui stiamo parlando. Ma anche, ho qualcosa a che fare anche con i bambini, col furto dei bambini per caso? C'entra anche quello ed è stato dimostrato in più occasioni. Che cosa? Comunque, cioè, che cosa? No, ma spiegami, è interessante questa cosa qua, molto interessante. I bambini che vengono importati. Ma non si riesce a parlare. Dimmi, i bambini vengono importati? I bambini che vengono importati e i bambini che vengono rapiti. Sì. Molti di questi finiscono nella tratta dei bambini, nella cosiddetta tratta dei bambini, in tratta degli esseri umani, sia per gli organi che per la pedografia e per altre situazioni. Ma anche l'adrenocromo, tu dici, per prendere del sangue? Allora, io non credo ai terapeutisti, non credo agli stronzati, eccetera. Ma questa cosa qui ci credo, perché questa gente qui è fuori dal mondo. Cioè, dici, dei criminali, sono dei maiali. Cioè, l'elite del mondo satanista rapisce i bambini per prendere il sangue per diventare più giovane? Io ci credo, certo. E chi sarebbero questi qua che prendono il sangue dei bambini? No, adesso, questa gente qua, poi ti faccio nome e cognome. Sì, certo. Lasciamo perdere. Bill Gates, Rothschild, Rockefeller, chi cazzo è che prendo sto sangue? Mettici il nome che vuoi accanto, che va bene. Devi sapere che questo paese sta morendo, sta fallendo. Speriamo di no, che ti devo dire? Speriamo. Ma come speriamo di no? Ma il vaccino lo farai tu o no, il vaccino? Lo farai o no? No, il vaccino, che viene a farmi il vaccino, poi tu vedi che cosa ti succede. Che succede se fai il vaccino? Che tutti quanti... Lo faccio io il vaccino, solo che il lago che ti pianto io nello stomaco è molto più grande. Ma perché mi dovresti piantare un lago nello stomaco? Scusa, non ho capito. Perché se tu mi vuoi... se tu mi vuoi piantare un ago contro la mia volontarietà, io ti pianto un ago più grosso contro la mia volontarietà. Un vaccino di meno, Parenzo, come giudichi il signor Manocchia? Senza appello, un coglione. E finalmente ci siamo arrivati, ragazzi. La teoria dell'adrenocromo, come cazzo si chiama, succhiano il sangue dai bambini. Ma tu ti rendi conto? Per diventare più giovani, l'elite. Ma tu ti rendi conto? L'elite. Nel tuo silenzio complice. Carlo, non hai nulla da dire oggi, Carlo. Naturalmente parleremo diffusamente domani di una tragica notizia. La tragica notizia domani. L'annuncio del vaccino da parte di questa multinazionale nelle mani di Renzi, Pfizer. Naturalmente domani ne parleremo. Una notizia drammatica. Ma come drammatica? Tutto il mondo l'ha appeso a questa notizia. Finisce la pandemia, caro degli ascolti. Naturalmente è una notizia drammatica. Domani spiegherò perché, naturalmente. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.